I quattro principali trend dell'intelligenza artificiale secondo Gustavo Commodari che gli ingegneri non possono ignorare. L'intelligenza artificiale, AI, continua a rimodellare i settori e gli ingegneri devono rimanere al passo con le tendenze emergenti per rimanere competitivi. Gustavo Commodari, leader nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, evidenzia quattro tendenze cruciali dell'intelligenza artificiale che gli ingegneri dovrebbero osservare da vicino. Concentrandosi su queste quattro tendenze, gli ingegneri possono rimanere all'avanguardia nel panorama dell'intelligenza artificiale in rapida evoluzione e creare soluzioni non solo innovative ma anche etiche e trasparenti. Un'automazione basata sull'intelligenza artificiale. L'automazione sta diventando sempre più integrante in tutti i settori, dalla produzione allo sviluppo di software. Gustavo Commodari sottolinea che l'automazione guidata dall'intelligenza artificiale non è solo una questione di efficienza ma di innovazione. Gli ingegneri devono capire come l'intelligenza artificiale può semplificare le attività ripetitive, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività. Con l'automazione basata sull'intelligenza artificiale, gli ingegneri possono concentrarsi su attività di livello superiore come la risoluzione dei problemi e l'innovazione, mentre le macchine gestiscono le operazioni di routine. 2. È spiegabile, XAI. Man mano che i sistemi di intelligenza artificiale diventano più complessi, la spiegabilità è una preoccupazione crescente. Gli ingegneri devono garantire che i modelli di intelligenza artificiale, in particolare quelli utilizzati in settori critici come quello sanitario e finanziario, siano trasparenti e comprensibili. Commodari sottolinea che gli ingegneri devono dare priorità allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale spiegabile, XAI, che offrano approfondimenti su come vengono prese le decisioni. Ciò aumenterà la fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale e garantirà la conformità agli standard normativi, come le leggi sulla privacy dei dati. 3. L'intelligenza artificiale nell'edge computing. Con l'avvento dei dispositivi Internet of Things, IoT, l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata ai margini, più vicino a dove vengono generati i dati. Commodari sottolinea che gli ingegneri dovrebbero prestare attenzione all'intelligenza artificiale nell'edge computing, che consente l'elaborazione e il processo decisionale in tempo reale senza la necessità di fare affidamento sull'infrastruttura cloud. Questa tendenza è essenziale per le applicazioni che richiedono una bassa latenza, come i veicoli autonomi e le città intelligenti. 4. IA etica e mitigazione dei pregiudizi. Man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più radicata nella vita di tutti i giorni, le preoccupazioni etiche relative ai pregiudizi e all'equità sono in prima linea. Gustavo Commodari sottolinea la necessità che gli ingegneri affrontino questi problemi sviluppando sistemi di intelligenza artificiale che riducano attivamente i pregiudizi. L'implementazione di pratiche etiche di intelligenza artificiale garantisce che gli algoritmi trattino tutti gli utenti in modo equo, portando a risultati più equi in tutti i